Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio, penultima puntata di questa stagione lunghissima di diretta con la nostra trasmissione. Domani vi saluterò, ma naturalmente ritorneremo alla fine del mese di agosto in diretta il 31 e regolarmente appunto torneremo in pista con la vostra trasmissione dedicata al vostro denaro, ai vostri soldi, ai vostri investimenti, ma anche qualche volta alle vostre, alle nostre disavventure. Fabbri, idraulici, elettricisti o altri servizi in emergenza ad agosto, quanto costano? Le disavventure con lo scaldabagno, il frigorifero che non funzionano più improvvisamente possono capitare come in ogni altro momento dell'anno, d'altronde, ma certo se capitano a Ferragosto costano il doppio, se non il triplo. Gli artigiani che operano in questi settori hanno in questo periodo, sembra proprio triplicare, anche una cattiva reputazione. Allora noi oggi vogliamo tentare di fare questa operazione di miglioramento di immagine, perché c'è anche, se si lavora ad agosto, pratica delle tariffe del tutto ragionevoli senza rischiare di mandare all'ospedale per arresto cardiaco il cliente di turno dopo la presentazione del conto. Però noi come ci dobbiamo comportare in questi frangenti? Il mondo è pieno di professionisti onesti e corretti, ma come mai sembra che ad agosto chiudano tutti la sala cinesca? È mai possibile? Non è così? Allora noi oggi impariamo a riconoscerli e abbiamo degli esperti che ci diranno come fare. Danilo Guffanti, presidente di APA Confartigianato di Milano, torna con noi dopo averlo già disturbato ieri mattina a Soldi e Dintorni, ma avevamo promesso ai nostri ascoltatori di tornare su questo argomento. Bentornato. Buongiorno a voi. Un altro ospite di Soldi e Dintorni di qualche giorno fa invece è Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, gruppo produttori pneumatici, perché qua anche la macchina si può rompere. In pieno agosto la gomma può scoppiare improvvisamente, oppure possiamo aver bisogno di fare una normale manutenzione delle gomme. Chissà com'è il prezzo in questo periodo. Sfugge di mano. Certo, dottor Bertolotti, bentornato anche lei. E saluto anche Lorenzo Tagliavanti, direttore della CNA di Roma, anche sulla capitale. Un'operazione per ovviamente dare la disponibilità di questi servizi a tutti i cittadini. D'altronde la capitale è vivissima in questo periodo, piena di turisti, per cui è chiaro che molte famiglie poi rimangono a casa. E allora, se l'interruttore della luce si rompe improvvisamente, rimaniamo senza luce per un po', che cosa facciamo? A chi ci rivolgiamo? E soprattutto che prezzo dobbiamo chiedere? Tagliavanti, benvenuto a Salva Danaio anche a lei. Grazie a lei. 800 24 00 24, il numero verde per gli ascoltatori, per permettere loro di intervenire in diretta. Allora chiamateci, perché noi vogliamo ascoltare se vi è capitata la disavventura, ma ovviamente può anche esservi capitato del tutto il contrario, di esservi imbattuti in un professionista del tutto corretto che non vi ha fatto neanche fiatare di fronte alla presentazione del conto. Raccontatecelo, ve lo dicevo, al numero verde, ma potete anche scriverci al 349 238 6666. Borse positive, ne parlavamo poco fa nel giornale radio, borse positive grazie alle numerosissime trimestrali che stamattina sono arrivate, una vera e propria pioggia di conti societari che a quanto pare stanno sorprendendo in positivo gli analisti, perché vedo una situazione positiva che è poi nettamente migliorata rispetto ad una partenza più debole per gli indici del vecchio continente. Londra sta guadagnando lo 0,98%, Parigi più 1,16%, Francoforte più 0,6%, FTSE MIB a Piazza Affari in rialzo dell'1,04%. Ecco la lista molto rapida delle società che hanno comunicato i dati: sono Siemens, la spagnola Telefonica, France Telecom, Renault, Volkswagen, Mazda per quello che riguarda il Giappone, ma ce ne sono tante altre, BASF nel settore farmaceutico, Sanofi Aventi, e quindi insomma tutta una serie di società che comunicano i conti e il mercato corre ad acquistarle. I migliori titoli per esempio a Parigi: Capgemini più 7,52, Alcatel Lucent più 7,20, EDF più 5,21, sulla City a Londra British Telecom più 11,94%, a Piazza Affari corre Pirelli più 6 punti, Geox più 2,53, Autogrill più 2,34, Tenaris più 1,99%. A Milano abbiamo il segno meno invece su Prismian e Finmeccanica che perdono lo 0,7%, STM meno 0,37 e Fiat meno 0,26%. Tornate a riprendere qualche posizione il dollaro sull'euro, a 1,40,65 il rapporto di cambio in questo momento, e il petrolio è tornato leggermente a scendere. Abbiamo le quotazioni che sono orientate sui 66 dollari al barile per quello che riguarda il Brent, il greggio di riferimento europeo. Invece per quello che riguarda il petrolio negli Stati Uniti siamo sui 67 dollari al barile. Direi che però possiamo lasciare la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina, andiamo un po' alle possibili, speriamo di no, disavventure, speriamo che quest'anno siano meno del previsto e meno del solito, disavventure con gli artigiani di turno, i professionisti di turno che devono risolvere un problema improvviso in casa, lo scaldabagno che si rompe, il frigorifero che si rompe. Allora, che cosa facciamo? Un rubinetto che perde, una serratura bloccata, l'auto in panne. Sono piccoli incidenti di ordinaria amministrazione che possono però diventare veri e propri problemi se capitano in periodi di vacanze, quando le città si svuotano. E trovare un idraulico, un fabbro o un elettrauto è sempre più difficile, soprattutto a buon mercato. È l'estate, infatti, il periodo in cui purtroppo si concentra il maggior numero di truffe, in particolare a danno delle persone anziane che non hanno abbandonato la città. E così ci si ritrova a dover pagare diverse centinaia di euro soltanto per la sostituzione di un tubo o di una serratura. Ma cosa bisogna fare in casi come questi, quando ci si trova davanti a richieste economiche esagerate? Innanzitutto è sempre bene richiedere il preventivo prima della prestazione. Se il prezzo è esagerato, bisogna contattare l'associazione di riferimento della categoria in questione e segnalare l'accaduto. In ogni caso, se la riparazione non può essere rimandata, bisogna sempre tenere la ricevuta. Inutile invece intavolare trattative sul prezzo. Per limitare episodi di questo tipo e per andare incontro alle esigenze di chi resta in città d'estate, Confartigianato ha attivato un numero di servizio a cui rivolgersi per ottenere informazioni utili in questi casi. Altrimenti è possibile rivolgersi direttamente alle associazioni di categoria per sapere se l'attività che abbiamo contattato per una riparazione è iscritta all'albo e per sapere se è adeguata o meno. Ed è sempre su queste basi che è nata a Roma l'iniziativa Artigiani Aperti ad Agosto, in modo da poter garantire perlomeno i servizi essenziali e di pronto intervento, tamponando così il rischio di improvvisi e spiacevoli incidenti. 800 24 00 24, torno a ricordarvi il numero verde per intervenire questa mattina. Allora cominciamo subito il nostro giro e la nostra chiacchierata con i nostri ospiti di quest'oggi. Danilo Guffanti, ricomincio da lei, APA Confartigianato di Milano, perché proprio con lei c'era venuto il desiderio questa mattina di approfondire il tema delle disavventure d'agosto. Abbiamo utilizzato una parola un po' pesante forse nella nostra scheda, la parola truffa. Io utilizzerei forse il termine malcostume, che è un po' più indicato, anche se a fronte di certe minime prestazioni un prezzo esagerato, in realtà forse un'altra parola non è possibile trovarne. Guffanti, su questo converrà anche lei, anche se poi voi fate tanto lavoro come organismi istituzionali che rappresentano categorie molto ampie di professionisti, fate molto lavoro insomma per far passare un messaggio diverso e basta una mela marcia nel cesto a rovinare il lavoro di tutti. Esatto, esatto. Credo proprio la parola truffa, magari esagerata, però è appropriata. Credo che nei consigli, nel cappello che voi avete dato, una delle robe fondamentali è proprio quello di rivolgersi alle associazioni. APA Confartigianato a Milano e sia a Monza fa questo tipo di servizio. Allora, io credo che prima di tutto un qualsiasi nostro radioascoltatore, ma qualsiasi cittadino, deve tenersi i numeri di telefono di quelli che sono delle associazioni, come terrebbe qualsiasi numero di telefono di pronto intervento che va dall'ambulanza a qualsiasi altro tipo di servizio, per non incappare magari in queste particolarità qua. Credo che noi siamo qui stamattina prima di tutto a non difendere quelle persone che non rappresentano la categoria, credo che fanno una concorrenza sleale. E che molto spesso non sono all'interno della categoria, perché il numero che troviamo sulle pagine gialle può essere proprio quello di un professionista che si come dire, definisce tale, ma che non è. Sì, esatto, potrebbe capitare anche questo. Uno degli errori più grossi è farsi prendere da quelle pubblicità a tutto spiano, dove interventi in 24 ore magari poi non rispondono a quelle che sono le esigenze del cittadino che richiama quella cosa. Perciò prima di tutto il mio primo consiglio, oltre a quello che voi già avete elencato nel cappello, è rivolgersi alle associazioni di categoria, che nel periodo estivi collaborano con gli assessorati del Comune di Milano, ma quelli di qualsiasi altro comune, dell'artigianato al commercio, dove danno dei numeri dove ci si può rivolgere. Questa è la prima indicazione, poi diamo anche noi i numeri per quello che riguarda Milano e provincia, a cui potersi rivolgere qualora non ci funzionasse la lavatrice proprio nella bella giornata di Ferragosto. Anche se la prima indicazione di buonsenso, su questo proprio ieri mattina ci siamo soffermati a lungo, è non farsi prendere dal panico. Magari se scoppia una gomma in autostrada è un discorso diverso, Bertolotti, poi ne parliamo. Però insomma, se la lavatrice si rompe il giorno di Ferragosto, non è che dobbiamo lavare tutta la biancheria del mondo proprio quel giorno. Possiamo aspettare sicuramente qualche giornata. Esatto, perché se si rompe il frigorifero con tutta la roba dentro, se rimaniamo discorso. Chiusi in casa, un altro discorso. Esatto, infatti. No, credo che. No, perché volevo arrivare a dire: non facciamoci prendere dal panico, non dobbiamo risolvere il problema nel giro di 12 nanosecondi. Esatto. Possiamo prendere 2 ore. Sì, ma anche qualcosa di più di 2 ore. Io credo che noi la prima cosa che dobbiamo fare è rivolgersi all'associazione di categoria, che ha un elenco di artigiani inerente al problema che uno gli capita. Può essere il frigorifero, può essere l'idraulico, può essere quello la serratura. E legata a questo elenco, l'associazione fornirà il numero di telefono, anche il più vicino, dell'artigiano che interverrà. Nell'intervenire i nostri associati garantiscono il fatto che spesso e volentieri non fanno pagare neanche l'uscita, perciò questo è un'altra operazione che APA Confartigianato ha voluto fare con i propri associati, il fatto di fare uscire e non far pagare l'uscita, perché ieri sentivo che c'erano dei costi esorbitanti nel fatto. Sì, poi la ricordiamo ancora la disavventura della signora Giovanna di Milano, una disavventura che abbiamo letto sul Corriere di Milano dei giorni scorsi, insomma, rimasta bloccata in casa e faceva meglio chiamare i pompieri piuttosto che invece il tizio che gli sbloccasse la serratura. Lorenzo Tagliavanti, direttore CNA di Roma, la vostra iniziativa simile a quella di Milano si chiama invece Artigiani Aperti. Ad agosto sono molti? Allo stato attuale sono 350 gli artigiani che hanno aderito a questa richiesta della CNA, del Comune di Roma, di poter garantire in un mese particolare come quello d'agosto comunque una qualità dei servizi adeguata all'importanza della città. Quindi insomma 350 in più dell'anno scorso, e peraltro adesioni che rimangono anche aperte qualora qualcuno decidesse di continuare a lavorare e quindi potrebbe anche dare la sua disponibilità, no? Ad ampliare questa base. Negli ultimi giorni sono aumentate le imprese che stanno aderendo all'iniziativa. Che garanzia dà al consumatore il fatto di essere, come dire, ufficialmente e formalmente iscritti a questa garanzia, a questa iniziativa? Guardi, gran parte delle truffe che avvengono tutto l'anno ma hanno il picco d'estate, proprio nel mese d'agosto, in realtà una parte importante vengono realizzate non da imprese artigiane ma da società che pubblicizzano una serie di servizi di pronto intervento, ma spesso dietro questi pronti interventi non ci sono imprese artigiane. La garanzia vera deriva dal fatto che tutte le imprese che aderiscono a questa iniziativa sono imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, che svolgono questa attività non soltanto di pronto intervento ma attività normale di assistenza, e nel momento in cui utilizzano un canale di informazione che è quello dello 060606, vuol dire il canale di servizio del Comune di Roma, ovviamente si sottopongono anche ad una verifica del proprio operato. Ecco, quindi insomma fate anche un piccolo colloquio preventivo per capire se poi hanno intenzione di lavorare secondo gli standard che voi fissati, che sono dei criteri professionali assolutamente inappuntabili. E allora poi ci spiegherà dove possiamo trovare anche questa lista di artigiani, qualora ci dovesse capitare nella capitale soprattutto questa necessità appunto di richiedere questi pronti interventi. Io ricordo ancora che potete anche chiamarci all'800 24 00 24, vedo già qualche prenotazione di intervento. È pronto Rodolfo da Bergamo. Rodolfo, le chiedo ancora un attimino di pazienza perché vorrei andare all'auto. Dottor Bertolotti, però Fabio Bertolotti è direttore di Assogomma, gruppo produttori pneumatici, anche andare in giro con la macchina a posto in questo momento è la cosa più indicata, e molti si accorgono di fare la regolare manutenzione dell'auto e delle gomme 2 secondi prima di partire con tutta la famiglia e con l'auto piena di bagagli. Questa non è una buona prassi, però per chi fosse costretto perché non ha tempo a fare diversamente? Beh, innanzitutto non occorre fare il fai da te. Il fai da te è sconsigliato e soprattutto non è previsto per legge. Esiste una legge sin dal 1992, la 122, che impone e dà come indicazione per un'operazione di montaggio, smontaggio e controllo gomme di rivolgersi a uno specialista, quindi a un gommista, una persona che si occupa e fa quel mestiere, che poi fa parte della categoria generalmente degli artigiani. Quindi non avventurarsi imbrigliarsi in operazioni maldestre, perché questo può essere l'anticamera poi di sorprese. Infatti, raccomandazione questa che vale per agosto come per tutti i mesi dell'anno, però se ci troviamo in una situazione proprio di emergenza e, come dire, il gommista se ne accorge che abbiamo fretta e quindi magari proprio per questo motivo carica sul prezzo. Ma non credo che sia, diciamo, allora poi ci può essere sempre il personaggio, il soggetto singolo che ne approfitta, e questo sta in tutte le categorie, quindi non fa differenza il gommista, il meccanico, questo può essere evidentemente possibile, però in linea di massima bisogna essere un minimo preparati, sapere innanzitutto che una gomma deve essere efficiente, deve essere correttamente gonfiata, i rivenditori specialisti, cioè i gommisti, fanno questa operazione gratuitamente, e ormai è un'operazione che viene fatta da anni gratuitamente, non solo per il ripristino della pressione ma anche per il controllo complessivo del pneumatico. Questo chiaramente per le parti, diciamo, che è un controllo visivo. Se poi occorre fare delle operazioni specifiche, è chiaro che queste vanno remunerate per, come qualsiasi lavoro. Attenzione, il gonfiaggio delle gomme è fondamentale, visto che siamo a salvadanaio, qui dobbiamo risparmiare dei quattrini. O spenderli bene comunque, perché molto spesso i consumatori sono anche disposti a spendere un po' di più a patto di avere un servizio qualificato. Le gomme vivono d'aria, l'aria non costa nulla, quindi basta fare una operazione periodica, e cioè una volta almeno al mese, di ripristino del gonfiaggio, della pressione. Il 52% degli italiani non fa questo tipo di operazione, con il bel risultato di consumare più velocemente le gomme, quindi un grande favore per chi rappresenta la categoria dei produttori di pneumatici, ma non per i consumatori. È un maggior consumo di carburante, i pneumatici si consumano più velocemente, e poi c'è un pericolo, c'è un fatto di sicurezza stradale, e quello che lei ricordava prima, i pneumatici scoppiano. I pneumatici non scoppiano, però se sottogonfiati e questa, diciamo, questo sottogonfiaggio è portato all'estremo e prolungato, può produrre lo scoppio del pneumatico per suo riscaldamento, quindi il pneumatico non scoppia se correttamente gonfiato. E infatti, no, tra l'altro poi non ci dimentichiamo che proprio per partire per le vacanze li sovraccarichiamo ulteriormente questi mezzi, pertanto è chiaro che la gomma sarà sottoposta. Madonna, come stamattina parlo proprio come un meccanico, non mi sembra vero, guarda. Quasi perfetto. Infatti, cominciamo a sentire i nostri ascoltatori. Rodolfo dalla provincia di Bergamo lo stiamo facendo aspettare da un pochino. Rodolfo, buongiorno. Allora, lei intanto non ci sta rispetto a quello che abbiamo detto all'inizio. Non le piace molto passare come quelli che gonfiano i prezzi in pieno agosto? Esatto, io innanzitutto volevo salutare voi e la trasmissione e tutti i radioascoltatori. Grazie. Comunque volevo spezzare una lancia in favore di quelli che lavorano onestamente, e secondo me ce ne sono ancora parecchie. Ma ce ne sono tanti, ma perché non li troviamo mai, Rodolfo? Ma perché ci imbattiamo sempre con quello che ci chiede, guardi, io le faccio 400 euro ma se non vuoi la fattura te ne faccio 200? Perché Se io dovessi far pagare 400 euro per un intervento, ho fatto solamente un esempio. No, capisco. Farei cambiare la caldaia, però voglio dire, noi applichiamo, per esempio, io lavoro per una grossa ditta, io sono in provincia di Bergamo, però c'è anche a Milano, c'è anche a Roma, e i nostri prezzi sono normali tutto l'arco dell'anno, quindi non è che andiamo in giro a fregare la gente. Quindi lei mi sta dicendo che non c'è nessuno tra i suoi colleghi che in estate se ne approfitta un pochino, essendo magari chiamato in tutta emergenza, che poi sarebbe anche giustificata, perché chiaramente un professionista il giorno di Ferragosto ci mancherebbe altro che non dovesse essere pagato, quindi anche questo è un messaggio che deve passare, anche se non sono d'accordo i miei ospiti, poi parliamo anche di questo. Abbiamo un prezziario e quello lì va rispettato, sia a gennaio come a febbraio come a agosto. Poi se qualcuno vuole fare il furbo, però questo io non a suo rischio e pericolo, però voglio dire, esatto, grazie, però Rodolfo, prego. La lascio concludere. No, tra l'altro, no, io allora prendo questa sua considerazione perché ne parlavo prima anche con Lorenzo Tagliavanti della CNA di Roma, prima di iniziare la trasmissione. Tagliavanti, agosto deve diventare un mese come tutti gli altri? Nelle grandi città italiane il mese d'agosto sta diventando molto simile a quello di tantissimi altri paesi, non si svuotano più. Io guardo la mia città, ad agosto a Roma si lavora, c'è tanta gente che lavora, così come Roma è invasa dai turisti, quindi si hanno migliaia di cittadini che vanno comunque assistiti. L'artigianato, che è essenzialmente un'attività di servizio alle persone e alle imprese, deve mantenere comunque un livello di presenza e di qualità di servizi anche nella in un mese come quello d'agosto. Ma c'è un altro elemento in più che deriva da un'indagine che noi abbiamo fatto da tutti gli artigiani che hanno aderito l'altro anno ad Artigiani in agosto. Questa volta c'è un motivo in più, la crisi. Le imprese artigiane devono contrastare una crisi dura, e un modo per contrastarla è anche quella di essere aperti ad agosto, vuol dire riuscire a portare al reddito anche un mese che normalmente certo, era dedicato al riposo. Compensare laddove magari negli altri mesi si è lavorato un po' meno. Tant'è vero, quasi il 25% delle imprese che aderiscono quest'anno ad Artigiani ad aperte ad agosto, la motivazione è questa: avere la possibilità di produrre maggior reddito per la propria impresa anche nel mese, dedicato al riposo. So che Danilo Guffanti è d'accordo con lei, la Confartigianato, prima di venire qua si è fatto una chiacchierata con alcuni colleghi artigiani operanti in altri comparti per capire che prezzi praticano in questo periodo, come si stanno comportando. Pienamente convinto che ha ragione Tagliavanti nel fare questo tipo di intervento. I nostri colleghi in questo periodo qui la crisi la stanno subendo forse più di qualsiasi altra categoria, e perciò ribadisco anche quello che diceva il collega che ha telefonato prima, che credo che sia un installatore perché ha parlato di caldaie, sì. Credo che è giusto, cioè non ci devono essere mesi di diversità, cioè dal 1° di gennaio al 31 di dicembre i mesi sono tutti uguali, compreso agosto e a luglio. Perciò gli artigiani, indifferentemente da quello che usano e hanno come obiettivo, il mese di luglio e agosto è uguale per tutto, perciò il prezziario non si cambia in base al periodo estivo. Ribadisco che poi i nostri associati in questo periodo di crisi qua, per fare ritornare quelli che sono i bilanci dell'azienda, anzi usano anche un metodo che è quello che non era di costume, di uscire senza chiedere il costo dell'uscita. Il problema però, Guffanti, è come facciamo noi consumatori a sapere se poi magari nella, come dire, nel conto finale che un piccolo imprenditore, che un artigiano ci presenta, questo costo dell'uscita poi effettivamente non si è ricompreso. Cioè noi come possiamo ad avere uno standard di tariffe al di fuori delle quali non è giusto che il professionista che ci fa l'assistenza in quel momento vada. Io saluto subito molto affettuosamente Giovanna da Imperia che mi scrive: buone vacanze a Deborah Rosciani senza le rotture di cui parla questa mattina. Lei ha aggiunto questo sms: Giovanna, ci è arrivato, la ringrazio, le auguro anche a lei buone vacanze, anche a lei ovviamente senza rotture di lavatrici, frigoriferi, condizionatori, interruttori e tante altre cose, anche le gomme dell'auto. Poi Bertolotti, continuiamo a parlare di queste perché alcuni ascoltatori adesso si sono così sbizzarriti nelle loro domande e scopro che c'è una marea di persone che ha le gomme gonfiate ad azoto, e questa la scopro stamattina, la cui manutenzione costa un po' rispetto invece alla Bertolotti. Certo, ma la manutenzione certamente costa perché è un gas tecnico, e a questo punto il costo varia a seconda, diciamo, del soggetto, dell'operazione, della vettura, può essere attorno ai 20, 25, 30 euro, questo è l'ordine di grandezza per un gonfiaggio ad azoto. Io mi domando onestamente per quale ragione non gonfiare le gomme con aria. Ma chi se l'ha inventata questa? Ma perché queste sono operazioni che avvengono in un ambito ben ristretto, che è la Formula 1, e poi hanno, ecco, e quindi danno diciamo dell'auto, una prestazione particolare, ecco quello che può essere detto, che non è che viene conferita una prestazione particolare, semmai con il gonfiaggio ad azoto si è, diciamo, soggetti ad un ripristino della pressione in tempi più lunghi. Ma attenzione, non è che si gonfia ad azoto e poi per 3 anni non si fa l'operazione. No, l'operazione correttamente va eseguita con aria, normalmente a costo zero, una volta al mese. Ad azoto evidentemente la permeabilità è diversa, quindi può essere magari procrastinata di un altro mese, ma poi comunque la pressione va eseguita ed è quella l'occasione poi per fare anche delle verifiche, soprattutto nella parte esterna del pneumatico, per vedere se esistono tagli, ernie, bozze, perché attenzione, quello è l'anticamera di un possibile cedimento strutturale in corsa, quindi quando si notano quei danneggiamenti è bene andare velocemente da un gommista e farsi sostituire la gomma. Allora, adesso su qualcuno che si è fatto sostituire la gomma ma ritiene che l'abbia sostituita inutilmente, probabilmente ha subito una sorta di ipnosi da parte del gommista, perché poi anche lì che siamo costretti a fare le cose quando riteniamo che non sia giunto il momento di farle è anche un altro discorso. Sentirei però Carla da Padova. Carla, ci piace molto il suo caso perché è molto simile a quello di Giovanna da Milano, dal quale abbiamo preso spunto per fare questa puntata. Buongiorno. Sì, salve Debora. Giusto 2 giorni fa ci siamo chiusi fuori, praticamente abbiamo lasciato le chiavi all'interno della porta e quindi non riuscivamo più a aprire. Abbiamo chiamato i pompieri e dopo circa un'ora sono arrivati, in 10 secondi sono riusciti ad aprire la porta, non ci hanno chiesto assolutamente nulla. Certo. E io ho salvato la serratura e tutto perché non ho preso nulla. E infatti questo è un caso particolare, comunque aveva lasciato la chiave all'interno e lei è stata, come dire, subito sveglia nel capire chi per un'emergenza di questo tipo dovesse chiamare, appunto. Però Danilo Guffanti, la signora, e questo è il tema sul quale poi l'ho disturbato ieri mattina, la signora Giovanna di Milano, è successa un'altra cosa, perché la serratura si è proprio guastata, per cui lei ha ritenuto necessario chiamare un professionista, un fabbro che ancora prima di intervenire l'ha chiamata dalla finestra e gli ha detto: signora, per la liberazione servono 90 euro per l'uscita e 450 euro, attenzione, per lo sblocco della serratura. Neanche ne ha portato un'altra a sostituirla, cioè ha speso praticamente 1 milione delle vecchie lire solamente per un lavoro che non so sarà durato 20 minuti, mezz'ora, Guffanti. Di fronte a questo, insomma, pure voi immagino che se lo beccate. Esatto, mi azzardo a dire che è stata una truffa, quello che si diceva forse all'inizio della trasmissione. Sì, questa è la parola giusta. Il rischio purtroppo è questo, cioè in tutte le categorie credo che poi c'è qualcuno, come dicevo all'inizio, si agevola o fa il furbino. Noi non siamo qui a difendere questa gente qua, chi fa il furbo per noi è segno di brutta immagine di qualsiasi tipo di artigianato che si parli. Io credo e ribadisco quello che dicevamo prima, come sapere se il prezzo è giusto o no, e rivolgersi all'associazione. Esatto. Ecco, non farsi prendere dal panico, rivolgersi all'associazione, in primo per evitare quelli che sono i prezzi esagerati e il rischio dei prezzi esagerati, ma ancora più di non trovare persone qualificate a fare questo. Rivolgendosi all'associazione, tutto questo noi riusciamo a evitarlo. Evitiamo questa cosa fondamentale, i prezzi esagerati e le persone qualificate, perché ricordiamoci che magari il fabbro non ha bisogno di un certo tipo di certificazione, ma magari l'elettricista, invece gli impiantisti che vanno dagli idraulici elettricisti, il tipo di certificazione devono averla, perché sennò rischiamo anche di far fare degli interventi che non sono a norma e che non vanno bene. Che non sono a norma. E comunque noi non conosciamo tecnicamente il tipo di intervento che sta facendo, pertanto ci potrebbe raccontare di tutto. Ma cosa fondamentale in questo è poi farsi fare la ricevuta. Fare la ricevuta con quelli che sono stati gli interventi. Primo, perché sulla ricevuta abbiamo il nome dell'artigiano che è intervenuto e tutti i dati per sapere se è un artigiano che può intervenire e fare quel tipo di lavoro o manutenzione, e già questo è un segnale importante. Secondo, sulla ricevuta noi abbiamo il fatto che sia la garanzia dell'oggetto che è stato sostituito. Se sostituiamo un rubinetto che 2 minuti dopo, certo, che va via l'idraulico si rompe e non ci abbiamo in mano questa ricevuta, noi rischiamo di ripagare l'intervento perché non ci abbiamo le garanzie di quello che è stato sostituito. Quindi insomma, guardate, veramente, piuttosto pagate 100 euro in più, ma fatevi rilasciare, non fatevi convincere, Bertolotti, del fatto che senza ricevuta si paga meno. Sì, lo so che il risparmio lì seduta stante magari può essere anche notevole, però con quel documento in mano ci possiamo sicuramente tutelare in un secondo momento. Assolutamente, anche noi siamo più che d'accordo. Anche quando un automobilista va da un gommista e si fa sostituire delle gomme perché è necessario, a questo punto chieda che sia emesso lo scontrino fiscale e poi chieda che sia emessa, anche se non è obbligatoria, la carta d'identità del pneumatico. E se questa carta d'identità stavo non fosse dell'elettricista, la carta d'identità del pneumatico, che è un'iniziativa da noi promossa insieme al Ministero dei Trasporti, proprio per evitare che vengano montati pneumatici a prescindere dalla marca o dal tipo, dal modello, ma devono essere montati pneumatici che sono idonei per quella vettura, e soprattutto che devono essere omologati, che devono avere tutta una serie di crismi. E poi con l'emissione dello scontrino fiscale, forse non tutti gli automobilisti sanno, decorre una garanzia di, come per qualsiasi, dico banale, anche se non lo è, asciugacapelli, che costa molto meno di un treno di gomme, anche per i pneumatici la garanzia è 24 mesi dalla data di emissione dello scontrino, quindi se uno non ha lo scontrino non ha la garanzia. carta canta, verba volant con i soldi, se no altrimenti questa è la situazione finale. Adesso vorrei risentire di nuovo Lorenzo Tagliavanti, CNA di Roma, però nel frattempo ci mettiamo in mezzo anche qualche altra testimonianza. Ci sono delle indicazioni di buonsenso di Giovanni da Milano, però Giovanni, mi faccia passare prima Maurizio da Prato. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Lei poi tutto sommato non ha speso moltissimo, vedo, per il tipo di intervento che è stato necessario, ma lei non la convince lo stesso? No, non mi convince perché l'operazione è stata di meno di mezz'ora. È venuto, ha messo un, non so neanche perché mi ha identificato lui, uno 0,05 di gas. No, senta, ma intanto che cosa si è rotto a casa sua? Ci niente, faccia capire. A me non mi funzionava il condizionatore. Poi a un certo punto, non lo so perché sa, sono macchine, non dipende da me, gli è venuto il tecnico, ha acceso quel telecomando e il condizionatore funzionava. A quel punto ha detto, sai che c'è, do una controllatina. Ma sarà stato meno di mezz'ora. E poi tra l'altro gli posso dire che il suo ufficio gli è a 30 secondi da casa mia. No, ma... 60 euro per me non sono rubati, un po' di più. Maurizio, insomma, per questo condizionatore che tutto sommato più o meno funzionava, Tagliavanti, beh, io dico che 60 euro magari, insomma, se c'è pure una certificazione, una ricevuta regolare dietro, alla fine ci possiamo anche accontentare. Però Maurizio ritiene che siano troppi, lei che ne pensa? Tagliavanti, CNA Roma. Sì, no, io dico questo, diciamo, bisogna anche un po' prevenire, nel senso... Non dobbiamo aspettare di avere il problema, sicuramente nell'attività di una famiglia noi avremo sempre bisogno più o meno di un idraulico, di un elettricista, di un meccanico, forse il consiglio migliore è quello di avere i numeri di telefono già con imprenditori e artigiani di fiducia che possibilmente sono quelli che abitano vicino al nostro quartiere, che hanno diciamo un luogo visitabile dove è possibile ritornare, che non è quell'artigiano che arriva soltanto per quel problema e va via, un artigiano che ha già una buona reputazione nel suo quartiere, eccetera. Questo significa avere appunto tre numeri di telefono, certo. Magari consigliarli oppure chiedere ad amici se conoscono già un bravo imprenditore. Perché è importante questo? Perché il consumatore ha un'arma poderosa, quella di scegliere l'artigiano, e deve scegliere l'artigiano migliore. E se lo facciamo quindi, quando non abbiamo l'emergenza, facciamo una scelta più serena. Tra l'altro migliora l'artigianato, perché in questo meccanismo costringe anche le imprese artigiane a dare sempre un servizio migliore, un costo più adeguato e così via, cosa che in genere il consumatore raramente fa. Questo è un po' un difetto dei consumatori italiani, i quali sono molto pronti ed è anche giustamente a lamentarsi quando, diciamo, cadono in qualche disavventura, e fanno bene a farlo e fanno bene le istituzioni a sanzionare chi ha fatto un atteggiamento scorretto, però sono molto pigri nella scelta, diciamo, sono molto pigri nel dover confrontare e nel dover scegliere l'operatore migliore. Ecco, anche il consumatore, visto che adesso stiamo parlando giustamente anche di qualche critica che può avere l'imprenditore, anche il consumatore dovrebbe essere da questo punto di vista più attivo, perché questa sua attività lo tutela e migliora la qualità dei servizi. Guardi, questo che le sto per raccontare non c'entra moltissimo col tema di stamattina, ma in realtà forse un pochino lo possiamo anche paragonare. Leggevo ieri sul Messaggero di loro hanno attivato questa sorta di sportello SOS consumatori, e ovviamente le disavventure che capitano in questo periodo, oltre a quelle di questa mattina, sono anche quelle legate ai viaggi, e in realtà c'era un po' tutta la versione in questa pagina di ieri degli agenti di viaggio rispetto alle esigenze incredibili che in questo periodo hanno tutti coloro che devono partire. Qualche volta anche loro non ci stanno, quindi diciamo qualche volta vista anche, come dire, la situazione sicuramente dall'altra parte, richieste pazzesche e magari del tutto ingiustificate rispetto alle reali necessità, ma questa insomma è un'altra questione, però mi aveva incuriosito anche questo. Rimettetevi le cuffie, eccoli qua tutti pronti i nostri ospiti a dare le informazioni pratiche e concrete appunto per gestire le emergenze di questo periodo. Peraltro c'era un ascoltatore che ci stava scrivendo: tutti i vostri servizi di cui vi state parlando, aperti, artigiani aperti ad agosto a Roma, così come i numeri appunto necessari, i numeri da poter chiamare a Milano e Monza se ci capitano appunto delle rotture, come le chiama la nostra ascoltatrice, in questo periodo, funzionano anche il sabato e la domenica? Le associazioni sono aperte anche il sabato e la domenica, chiede un ascoltatore, tenete presente che di solito le situazioni di questo tipo capitano il venerdì sera. Beh, direi di sì, Gufanti, apa con partigianato, sì. Cioè, è aperto sempre 24 ore su 24. Se posso, io gli darei questi numeri. Diamo i numeri per Milano e Monza. Allora, per Milano è 02 68 82 151. Per Monza 039 36 321. Ma una sede della Confartigianata e della CNA c'è sicuramente in ogni provincia d'Italia e magari anche in ogni paese, c'è sicuramente ovunque, per cui avete tutta l'opportunità in orari d'ufficio di chiamare e chiedere appunto se questi servizi ci sono. Esatto. Massimo da Modena. Pronto, buongiorno. Massimo, buongiorno. Buongiorno, senta. Dunque, oggi io sono andato... Proprio oggi ho fatto sostituire i miei pneumatici, anzi sono andato per una convergenza e equilibratura delle gomme. E il gommista, mio di fiducia, dunque, premesso che le gomme sono state sostituite l'anno scorso, sì, ha fatto una manovra con la mano, ma inaspetta, ha dato un'occhiata, ha tastato le gomme, fa qui bisogna sostituire. Massimo, quanti chilometri ci ha fatto in quest'anno? 7.000. io ho detto ha scalato le montagne l'anno scorso, l'abbiamo sostituito l'anno scorso, fa no perché qui insomma me l'ha un po' menata alla fine e alla fine l'ha dovuta cambiare. Quanto le è costato tutto questo, Massimo, stamattina? 200 euro. Eccoci qua, mezza vacanza, insomma, è andata in questa maniera, Massimo. Adesso peraltro noi ci stiamo anche divertendo, cioè, c'è poco da ridere, qualche volta risultiamo un po' anche irrispettosi dei nostri ascoltatori, ma prenderemo volentieri a bacchettate sulle mani il suo gommista. Quindi insomma lei le ha cambiate, Massimo, alla fine? Sì. Alla fine le ho cambiate, giusto per sicurezza rispetto a mia figlia, perché dice, a meno che io non veda un taglio evidente sulla gomma, come faccio a stabilire, da totale profano del settore, Bertolotti, ci aiuti lei, se la gomma va cambiata? Però 7.000 chilometri un anno dopo, allora è impossibile dare una risposta precisa, sì, senza vero, aver visto, la vorrebbe controllare quest'auto, ma un minimo di verifica sarebbe fondamentale. Ma comunque certamente una gomma 7.000 chilometri con un anno di vita appare, diciamo, una tempistica del tutto non logica. Poi può anche essere accaduto molto banalmente che l'ascoltatore non ha gonfiato le sue gomme da quando le ha montate. Quindi si è logorata effettivamente. E poi ha urtato semplicemente un marciapiede a 10 km all'ora con delle gomme sgonfie, e a questo punto ha lesionato la parte interna delle gomme, ma senza volerlo. Quindi il pneumatico apparentemente si presenta assolutamente integro, ha un battistrada che chiaramente non è consumato, ma è lesionato internamente, quindi questo è o una buca, semplicemente, nelle nostre strade qualche buca la troviamo. Sì, certo, quindi insomma la buona fede magari del gommista, noi dobbiamo assolutamente credere. Nel caso di Massimo non era molto convinto, peraltro possiamo trovare anche informazioni su dei vostri siti, dottor Bertolotti, per capire come ci dobbiamo comportare anche col gommista. Allora sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it ci sono una serie di informazioni utili perché qualsiasi automobilista possa avere delle indicazioni precise su come comportarsi, come effettuare la manutenzione, soprattutto se parte adesso con un camper al seguito. I camper non fanno differenza rispetto agli altri mezzi, purtroppo abbiamo visto sono dei mezzi, dei veicoli come tanti altri, anzi devo dire non tanto i camper, ma quanti i mezzi trainati, cioè le roulotte, i carrelli, che hanno presentato in una recente indagine che è stata fatta nel compartimento della Toscana della polizia stradale, hanno manifestato delle situazioni di non conformità, intendendo per tali pneumatici lisci, pneumatici danneggiati, ma con anche quantitativi significativi. I camper invece, devo dire, avevano delle condizioni che poi non si chiamano più camper, attenzione, perché non si chiamano più neanche anche roulotte, sono i caravan e gli autocaravan, le roulotte. Non sono io che l'ho stabilito, ma il codice della strada che ha modificato da un po' di anni a questa parte la terminologia, però poi chiamiamo gommisti quelli comune, che certo, invece sono definiti rivenditori specialisti di pneumatici. Però l'importante è intendersi: quando c'è un problema di gomme si va da gommista, quando fa male il dente si va da dentista. Esatto, non dal rivenditore specializzato di porcellane per la bocca, insomma, diciamo. Tra l'altro, dottor Guffanti, APA Confartigianato, io vorrei così anche riprendere un po' il tema che molto scherzosamente avevo utilizzato con lei ieri mattina, soldi e dintorni. Lei fa l'orafo, fa tutt'altro mestiere, quindi non installa condizionatori, non ripara lavatrici, però magari è un settore il quale che anche in questo periodo si presta un po' a fare il furbetto. È chiaro che uno ha una collana che deve riparare magari da lungo tempo, se sceglie proprio il 12 agosto per fare questo lavoro, lei ci prova? No. Non ce lo confesserà mai, ci mancherebbe altro. No, direi che l'orafo è come tutti gli altri artigiani, però legato, diciamo che non c'ho bisogno di un pronto intervento, non credo che una l'esempio persona che io ho fatto ieri mattina è che arriva il turista che si è portato dietro il gioiello che vuole assolutamente sfoggiare durante una bella cena in vacanza, però magari questo avviene perché ci sono dei laboratori orafi che lavorano conto terzi per dei negozi magari importanti nelle varie piazze, nelle varie città di Milano, d'Italia, che danno un'assistenza al negoziante nel caso gli va lì il cliente a fare l'intervento e il cliente magari si ferma 2 o 3 giorni e allora ha bisogno di un intervento immediato. Ma in genere, come dicevo prima, non esiste un prezzario diverso per il periodo di luglio e agosto, il prezzario è quello. Direi che però magari i laboratori orafi aperti nel periodo di agosto, salvo chi fa questo tipo di assistenza ai negozi che sono aperti, è un periodo un po' pericoloso per stare aperto, ecco, diciamo così. Allora, se poi nel nostro condominio ci troviamo in una situazione di emergenza, c'è un'altra indicazione utile che Giovanni veramente... No, Giovanni c'è scomparso improvvisamente, adesso lo ripeschiamo perché è un'indicazione utile. Se non lo ripeschiamo lui, la do io perché è interessante. Vincenzo da Firenze, però abbiamo Vincenzo adesso. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, io intervenivo in merito alle qualità tecniche degli impiantisti o comunque dei manutentori di impianti, perché secondo il mio punto di vista, essendo io stesso sia un installatore che un manutentore di impianti, ritengo che la qualità non vada mai messa in discussione, la qualità di un impianto o dei materiali adoperati in un impianto, e neanche le manutenzioni, perché sono molto importanti. E in risposta al signor Maurizio Di Prato, che aveva speso forse 50 euro 60 per... ci diceva, sì. Ok, allora, noi per quanto riguarda la manutenzione degli impianti d'aria condizionata abbiamo sempre apportato una cifra del genere, più o meno, dipende dall'intervento. Poi la professionalità è nella manutenzione e trattamento sanificante, antilegionella, antiparassitario, tutto quello che uno vuole dell'impianto stesso, magari con un piccolo rabocco di gas. Mm. 50 euro, 60 euro possono sembrare tante, ma per muovere, secondo me, una macchina ben organizzata a volte sono poche. Sì, però magari farli tutti questi 2 o 3 lavoretti di manutenzione nel momento in cui ci si è spostati, non limitarsi solamente a fare una sostituzione di un piccolo filo, come ci ha indicato prima l'ascoltatore, perché mi pare di capire che abbia avuto l'impressione di un intervento che non è stato molto più complesso, non è stato nell'ordine di quello che lei ci ha indicato, Vincenzo. Poi giustamente, se già che si è lì, il lavoro da fare magari è poco, già che ci sono, ti metto a posto tutto il condizionatore, lo si concorda con il cliente e si decide di farlo, no? Non trova? D'accordo con lei, però le dico, se la normativa prevede che ogni volta metto mano su un qualsiasi cosa, decade la garanzia da parte di chi l'ha installato e la prende in mano la persona che ha manomesso o comunque ha fatto manutenzione o servizio assistenza a post installazione, allora se questa responsabilità è sacra, perché è sacra, perché se io modifico l'impianto elettrico di un elettricista lo devo ricertificare, è uguale se tocco un filo di un condizionatore, decade o comunque va via una garanzia, mi sembra opportuno il costo delle 50 euro rilasciando una certificazione di ciò. Se poi ci sono aziende che non lavorano a questo livello... Vincenzo, abbiamo capito, però insomma non credo che questa trasmissione, come dire, poggiasse sull'intervento da 60 euro. Qua stiamo parlando proprio di casi estremi che purtroppo in estate raddoppiano, triplicano e proliferano purtroppo e danneggiano l'immagine invece di professionisti che lavorano seriamente, sono tantissimi per fortuna nel nostro paese. Magari chiedo allora un intervento conclusivo su questa considerazione di Vincenzo da Firenze a Lorenzo Tagliavanti della CNA di Roma. Concordava con quanto indicava Vincenzo? Sì, il costo non mi pare oggettivamente un costo né da truffa né particolarmente esuso, tenendo conto che è un intervento di tipo professionale e che quindi mi pare abbastanza adeguato. Però il vero problema è la percezione, voglio tornare al concetto di prima, il padrone delle aziende artigiane sono i loro clienti, la percezione del cliente a volte è più importante dell'intervento dell'artigiano. Noi lo ricordiamo spesso ai nostri associati di spiegare sempre il tipo di intervento, bisogna spiegare bene la qualità anche tecnica dell'intervento che è stato fatto, perché sempre più anche per la piccola impresa non è più importante solo quello che si fa, ma anche la relazione che si ha sul cliente. Probabilmente se questo operatore di Livorno avesse spiegato meglio la qualità, il tipo di intervento, che cosa era composto nel prezzo, la percezione dello stesso cliente sarebbe stata diversa. Peraltro, no, guardi, glielo leggo un altro messaggio, e qui abbiamo proprio il caso di una percezione del tutto diversa, e si parla della stessa area toscana, peraltro, che abbiamo Viareggio. È venuto il tecnico, ha sistemato il climatizzatore, lavoro perfetto, 50 euro Viareggio, onesti lavoratori, non tutti gonfiano i prezzi, ci racconta Daniela, per cui stesso intervento, probabilmente medesimo prezzo, la percezione è radicalmente diversa. L'ultimo suggerimento, stiamo chiudendo, Giovanni da Milano, lo sa che anch'io volevo dare quell'indicazione che ci vuole dare lei? Perché anch'io ho sotto gli occhi la bacheca del mio condominio. Perfetto. Ecco, ce la dica al volo perché siamo chiusi. Buongiorno, dunque io sono un artigiano edile e naturalmente gli amministratori espongono la mia disponibilità nelle bacheche nell'eventualità che ci fosse bisogno di interventi urgenti. Esatto. Naturalmente collegato anche con l'intervento dell'idraulico, perché se dovesse succedere una rottura interna eccetera, sicuramente bisogna lavorare in coppia. E certo. La parte muraria e la parte diciamo tecnica. E certo, però insomma, piuttosto che cominciare ad aprire come dei forsennati impazziti le pagine gialle e cercare il tecnico, perché vive nei condomini in bacheca esposto generalmente la lista dei professionisti disponibili anche in casi di emergenza. Grazie per avercelo ricordato, Giovanni. Anch'io stasera me la riguardo bene, sperando di non aver bisogno. Io ringrazio molto Lorenzo Tagliavanti, CNA Roma Tor Tagliavanti. Buon estate e buon artigiani aperti ad agosto. Grazie anche a Danilo Guffanti, auguri di buone vacanze. Anche allora, a lei e a tutti con l'oreficeria chiusa, immagino, per tutti coloro che hanno intenzione di farsi quindi sistemare i gioielli, non è periodo per il dottor Guffanti, e grazie anche a Bertolotti per le gomme. Grazie a tutti voi e buone vacanze. Salva Daraio torna domani per l'ultima puntata. Allora chiuderemo con ancora un monitoraggio dei nostri investimenti, particolarmente dedicata alla puntata sarà ai titoli di Stato. Buona giornata e a domani.